fare, compare? Compare, compare. Che? Sto cercando compare mio, qualcuno l'ha visto? Forse sarà ancora sventando quella di ieri notte. Evidentemente ha caricato troppo ieri notte e sarà ancora dormito. No, mi dispiace, è astemio. Tu dici no? Non è quella persona? No, non è quella persona. Allora mi sono sbagliato, là. Auguri e buon anno comunque. Grazie altrettanto, a voi. E se sentite compare mio, fatemelo sapere. Vediamo un po', se lo trovo, se lo vedo, senz'altro glielo dico. Ok, fate chiudere. Ok. A questo punto tutti i marker che salgono verso l'alto. Compare, compare, ma che sì, io ti sto aspettando. Babbo, hello? Attenzione, Gian Maria. Gian Maria, ci sei? Dimmi, Bacchi. Gian Maria, buonasera. Buonasera, auguroni e buon anno. Grazie, ricambiati al 100% anche dalla famiglia mia, verso la tua. E beh, dove sei, Gian Maria, in campagna? Ma scherzando stai, Bacchi. Ma ti bagni sia l'uomo di stare in campagna adesso? No, perché sono con Tony sulla 27. No, ti sono chiamato, hai detto, ma sono in terreno verde. È accesa, ma non c'era nessuno. È accesa dalle le 5. Ma non c'era ma un'anima. Una mezz'oretta fa, non neanche. L'ho chiamato Tony. E dunque abbiamo già fatto 4 chiacchiere. Tore, sa ancora che non si è fatto sentire, io non l'ho sentito, Oh, c'era una donna poco fa che stava cercata a compare, e mi ha chiesto se l'avevo visto a compare. Ho detto, è in coma, che ha bevuto troppo ieri notte, e dice, no, è di quelli, no. Compare sono cercato, non è che c'era questo, si chiama compare. No. Tore, sulla 23, Gian Maria. La 27 si è accesa qua. Tore, passa in più mese. Ma non sarà il 27, Tore, no? A cui sei? Il 27, stavamo parlando del 27 poco fa. Adesso lo chiamo e non mi rispondo, aspetta. Tore, ci sei? Attento, Tore. Ma che compri ci sei? E chissà cosa fai, va. Stava merendando, ma chi? Ah, in PMR non può parlare, Tore, perché non funziona il microfono, insomma lì. Ho capito, ma chi? Tore, adesso è il 27, mi ha detto, che non gli funziona il microfono del PMR, dunque non può parlare. Ah, così è. È un po' strano quel microfono, cazzo, che non funziona. Boh, microfono nuovo. Dice non funziona. Vediamo un po' se riuscite a sbloccare il 27. E l'altro giorno mi sembra che me l'abbia detto, dice che ogni tanto li difetta. Beh, strano è. E microfono nuovo, cazzo. Ma vabbè, ma gli c'è l'altro, per cui non ha un problema, no? Se funziona, non funziona bene il microfono di quello, magari c'è l'altro piccolo. Sì, adesso ho detto che provo a parlare. Avanti, so, parla. Qua adesso uscendo, adesso sì. Adesso sta uscendo la cosa rossa, deve essere quello di Spinotto. Boh, non lo so. Buonasera, Gian Maria. Gli auguri ti ho dati ieri notte, quindi... Andave. Ehi, buonasera, alto. Ben entrato. Ehi. E tutta la sera cancellando tanti che si fottono che hai mandato. Ma ti piacciono? Ci ho fatto il romanzano, mi. Aspetta, 22 vinili, no, 17 foto sono. Capita. Là io ho visto tutti già. Vanno bene. Hai visto Bacchi, Tore, che sta uscendo adesso? Abbasso, ma sta uscendo, abbasso. No, che metti che poi devi giocare a sapere piedi. Passo, è proprio scala qua. È la radio fortissima. Oh, se sei lo sento male allora. Aspetta, devo stare collocare questa batteria, voglio un po'. Ok. Avanti, Tole. Guarda a vedere adesso, a vedere a te, se arrivo bene. Sì, già vivi, ti sto arrivando. Anda a vedere me, dai. Continua così. Otto! Dimmi, Giomari. Prova a metterlo al massimo. A chi? A metterlo al massimo, a vedere un po' com'è la radio. È tutto al massimo è questa, devi o no, no fazzi. Ah. Ma quale c'hai adesso? Cose, quello piccolino, il gemello, quello che c'ha Bacchigio, quello lì c'ho. Ah, io credo che c'avevi l'altro, grazie. Che abbiamo una cannonata questo, ma questo il microfono non va. Ah, deve essere lo spinotto, deve essere come tiro, si stacca un po' e non anda. Adesso io l'ho tolto e l'ho rispinto e l'ho messo bene. Ah, meglio così allora, Hai visto Bacchi? Che è una cannonata, Bacchi. Oh, è più forte di te, mi Bacchi. Sì, sono più in alto di me, però. Io sono andato con l'antennino, capito? E poi quello lì c'ha 5 watt, questo, anzi, quello lì ha 10 watt, questo ne ha 4. No, ecco, le dico, c'ha 10, quello ne ha 8. 8 sono, non 10. 10 te lo commercializzano, Giovanni. Quando tu guardi al computer dici 10 watt, poi saranno 6, 7, 5, no, non si sa. E per me, come? Io ne avevo uno da 25 ampere, 25 watt, e si è bruciato. Che vai? Che bava! E per me, come? Abbassami le voci, mi stai sordando. E tu, quale te fa male, come? E abbatta di cuprisi qui. Ah, io fammi da italiano. E tu, quale te fa male, come oggi? Ah, io abbassa lui, che sei troppo forte. Ma dove lo chef? Buonasera, io sono arrivato adesso, ad Alghero, a fare un giretto, una passeggiata. A te, la faccia ultra. È bella, la sera gli era bella, così che poi l'hai fatto bene, sei uscito. Certo. Mi ha fatto bene, sì. Buonasera, Luca. Ciao, Tore, ciao, Giovanni, ciao, Bacchise. Avanti, Bacchi, mi ascolti? Mi ascolti con le orecchie? Ma Bacchise, sei inceppato. Non sono inceppato, mi ha detto che sto ascoltando coi piedi. Non hai sentito, Luca? No, cosa ha detto? Ripete, Bacchi. Ho detto, Luca, non ti sto ascoltando con le orecchie, ma con i piedi. Ah, io si chiamava. Vabbè, dai, tanto io tra un po' me ne vado a casa, ho solo il baracchino nel caso. Perché ho anche un computer, diciamo, lo sto controllando, sembra che sia a posto. Comunque io accendo il baracchino al 23, se c'è qualcuno magari. Era acceso fino a poco fa qua, eravamo con Tore sul 23 e siamo passati in PMR. E vabbù, io nel caso lo accendo, dai, se ci siete là sono pazienza. Qua si è acceso, il mio si è acceso, quando accendo questo accendo l'altro, così che il mio si è acceso, se c'è qualcuno che chiama già rispondo io. Amore! Ehi, Gianmarì, dimmi. Aiuto, in capo a qualche cosa, che se ci addormentiamo, Che cosa vuoi che ti dica? Già ne è bombardato, avanza. Ma Bacchi di poche parole, Tore. Il mare gli ha portato via le parole, Giovanni. Stamattina è andato al mare e ci ha portato via tutte le parole. Ai te. Tutto mandare in giro e ci mangiare, guarda. Ah, tutte le foto di Porto Torres di Santo Paizio ha mandato. Ci ha fatto e tutto quella corsa, casa. Bravo tu! Oggi era una serata bella, Infatti, era bellissima, sì. Era così bella, si sentiva all'usore. Oggi eravamo una magnarrizzo buru. E già l'hai magnati allora? No, so che ancora sta gialli. E bisogna che entri a io e me ne voti a una cinquantina di ricci. Lì è fredda le bavande. Non saranno. Ma una muta non intendi di freddo, si scalda subito quella. Ah, così è, allora io... Ah, ma chi si fa di mettere la muta? Aspetta. Ma chi? Mettete la muta da dottore a fare ricci. Io, senz'altro, io la faccio da fuori e a moglie lo vento, lo posso da fuori. Fino a 2 metri ci posso arrivare, capito? Fino a 2 metri già li tiro fuori. Intendi to? Ma chi? A che ti credi più fare io? Lo sai todo dove vado? Argentino, a mare di fuori. C'ho il gancio per portare fuori. La parte mia me la posso sempre tagliando. Vabbè, io chiudo qua, dai, se ci siete di là, dopo, se no pazienza. Saluta, prima volta vi saluto. Ok Luca, ciao, salutissimi. Buona piacere che a casa, sentiamo poi allora, 27, vai. Avanti, insomma lì. Vai lui, dai. Sta acceso qua, se vuoi chiamare, chiama. D'accordo Luca, avanti tu. Ciao Luca, stammi bene, buona passeggiata. Ma chi? E beh, come ce l'abbiamo passata ieri notte? Ah, ha dolore di mal di schiena. Sì, ma non è trincato? No, era in piedi, ma dopo mi ha messo con un caldo. Non ce la facevo più a star seduto. Hai te detto? Ma quello sfumato assaggiato agli ultimi bacchisio. Ah, io già non mi sono privato di nulla. Panettone, sfumante. E a voi ha già citato che venisse mezzanotte, mi sono cucciato all'1:30. E noi eravamo quell'ora stesso. No, eravamo a casa lui, mio figlio e noi. I ragazzi erano usciti fuori. E noi 7:04, tranquilla passi, abbiamo mangiato e bevuto e siamo stati bene. Infatti. Ah, che sanno, bisogna vedere quanto la abbassemmo. Eia. Ma chi? Eia, siamo lì. No, ma pensiamo che sanno, non sta sanno, pensiamo. No, sfumante, insomma, io non posso bere alcol, lo sai, non posso bere alcol. Comunque, non da sfumante. Eva! Eva, vabbè, anche quella ci vuole, vabbè, anche quella, però appena appena assaggiare già l'hai assaggiato, no, nulla. Sì, vabbè, appena appena non fa nulla, Bacchi, fa appena di sfumante, vabbè, dai, già passare un mattessi, la mancusi. Ehi, allora, poco, tu poco, Bacchi, io mi vorrei che ci vada tanto, me l'ha appena assaggiato. Un dito mi dirà l'andato, si deve immaginare. No, l'ho assaggiato. E anche le lenticchie me l'ho fatto mangiare. Perché io non ne mangiavo mai, quest'anno invece mi hanno fatto mangiare le lenticchie. Beh, com'erano buone? Ma mi piacciono a me le lenticchie, capito? Su minestrone mi piacciono le lenticchie, ma cucinate così no. Però già le ho assaggiate per non dire che non le mangiavo, capito? Ma sai, dottore non mangia le lenticchie. Ma chi? L'ho assaggiata, perché l'ho assaggiata non ne sapevo me, dottore. Ci mangia tutta la lenticchia della sardegna, Gio Maria. Infatti, ma dai, dottore non mangia le lenticchie, sai? Vero, Gio Maria? Oh, saranno, oh, no, io lo faccio, non ne volevo assaggiare, no, perché non ne ho mai assaggiati così, proprio solo le lenticchie come di tradizione, dice che è buon augurio, boh, io quest'anno, gli altri anni non ne mangiavo, quest'anno invece me ne ho mangiati un paio di cucchiai, me ne sono mangiati, no, di più, vediamo un po', già sembrano buone. No, mi piacciono molto su minestrone a me le lenticchie. Vabbè, cosa era insieme al cotechino? Come? Erano insieme al cotechino le lenticchie. Oh, no, non c'era, senza niente era. Era senza niente. Il cotechino, io chi le mangio il cotechino? Io. Oh, mai mangiato cotechino io. Vabbè. Io so che si cucina insieme al cotechino. Certi le fanno pazzi, boh, a me no. Oh, questo. Ce l'abbiamo, ma no, oh, non ne mangio io. L'osso è per regalarci col cecchino io, sembra immaginare. No, quando una cosa non mi piace è inutile. Ripeto, le lenticchie così io non le mangiavo. Però quest'anno me le hanno fatte assaggiare, le assaggiate perché dico porta fortuna. Boh! vabbè, andare così. No, va una volta ogni tanto a assaggiarle. Andare, riprendetela signor Bacchi. Sì, quest'anno lenticchie. No, lenticchie nulla, nel cotecchino nulla, il cotecchino sì, ai cani, ai due bocciucci il cotecchino lo facciamo. Il cane va zemare, si aggosa, meglio non danniri. Come c'è un zampone, e il cane magna, ma no, saranno, no, perlomeno, no, cose che non mi piacciono, tra il cotecchino e il zampone, no, non mi fa, ecco. Sono due cose che non mi fanno, non mi piace, e io ho ragione. Quando una cosa non piace, inoltre, non mi provo nemmeno a mangiare, perché so che non mi piace, capito? Ho provato vari anni fa, ma non è per me, ecco. Io l'ho assaggiato, però è troppo grasso, sto manchevole. Dai che si piace assai, che piaggi? Ah, ma chi c'è il zappone che piace? Nulla, non se ne comprano neanche di quella roba lì. Lasciamola stare ai golosi. Ci saranno senz'altro i golosi di questa cosa, eh. C'è questo, in questo paese dove li fanno, dice che vanno pazzi per queste cose. Forse magari loro il piatto preferito è quello lì, sono abituati, ma noi non sono tutti che lo mangiano questa roba. Sì, ma per Natale, per Capodanno lo cucinano, un po' di gente lo prende, è poco buono, una cosa buona, chissà che può cagliare il Trento. Oh, a Torre già le piace, così che... a stare mangiato. Sì, mi piace, ma no, l'ho assaggiato, però no, non ci vado matto a questa cosa. Magari si vede, a che volte te lo mangio, ma non sempre, una volta all'anno. Vabbè, e oppure magari... che questo fatto delle lenticchie, ripeto, non le mangiavamo, non mandavo, eppure quest'anno, ma dai, me l'hanno fatto mangiare, erano buone, ed erano senza niente, erano buonini, magari l'anno prossimo può darsi pure se ci troviamo che ne assaggiamo di più. Giomari, sono... già sono buone, però non è che vanno manco io buono da questa cosa. Auguria. Se mi di... cosa? L'ubescio o i gamberi, chi si già se lo mangio bene volentieri, finalmente mi viene un sacchetto mi fermo, Andiamo. E a te, Bacchi? Io l'ho detto a Gian Maria, a Campanone andiamo di lusso, e roba ci può mangiare, però la roba per la spina, è inottata, senza spine si mangia più bene, sì, chiaro. Invece il coso Graziano ha rinunciato a cucinare, corre di Guido Marconi. I Marconi sono buoni. Il Graziano dice che ha mangiato lo maccone a Rinucci, mi stava preparando ieri sera, mi sembra già l'hai sentito. Lo maccone, a gran carriera. Alla sassarita proprio, Lo maccone e via, e Monzetta. Quelle vanno più bene, quelle sono più fanno più bene, vero Tò? Sì, ma Edo... se ne deve assaggiare due e finse troppo. A chi è non andare d'accordo, Ah, così è. Io penso che una cosa che fanno, penso che andiamo d'accordo con i lumaconi. Ah, mi piaccio. Con patate, mi faccio patate. Con patate mi piacciono molto. Anche le lumache con patate. Ma così no, al ripieni graziano, l'hanno fatto i ripieni con il sugo, formaggio, pane grattugiato, allora poi il regalo a butto, penso che avrei messo anche il peperoncino. Macche, che non è a poco, dobbiamo il peperoncino ci vuole, se no non ti attacca bene, invece quella un pochettino senza esagerare, e allora conviene anche quello bianchino, quello buono però mi. Ci vuole quello lì, sì. Quello già ci vuole quello va con i piccanti. Avanti tu, piccante lo mangi tu. Qualcuno già l'assaggio io, no. Che no. Anche io già li mangio, però. Beh, che ando d'accordo assai con una cosa che faccio, non ando assai d'accordo. Sì, invece la montetta è più facile, e con una carpita in ancora la cosa, lo pollello, e si mangia niente. Infatti, un paio, due, tre, quattro già li mangio. Le cose, ma qui con appena di peperone già fa. Sì, 3-4 chili però, Gianmarì, 3-4 chili. Sì, lui ha detto 3-4, ma non ha specificato i chili. Secondo voi già abbiamo pensato a quello, saranno chili, no? Non 2 o 3 come ha detto Torre, pacchi, e altre così. Ma Torre non si può allargare per dire che l'ha mangiato tanto, capite? 2 o 3 chili però, no, non si è specificato, vabbè. Vuol dire che è roba che gli va, che gli piace. Avanti to. No, guarda, ce li avevo per Natale, ce li avevo, però non li ho mangiati io. Se li mangiati l'altro, mia moglie ce li ha mangiati, però non ha già assaggiato mancuno. Non li ha mangiato, male se mantende, se stai nascondendo dietro le quinte, tu cava pure la ragione. No, se ti dico una cosa, anche da mia cognata, che vi siete con un bevarone, io ando assai d'accordo con un bevarone. Ah, con un bevarone andate d'accordo allora tu? No, che non è buono un benno, se che appena reda mandate, ma che ne è buono e troppo, non ando d'accordo. Catta, dopo ne ci vorrà gannarruglia. Non è troppo, non sa bene, ecco, non va bene, ecco. Però tanto per dare la chitarina già, un pochettino già ci vuole, senza esagerare. Però qualche volta sembra così, magari ne metti un pezzettino e sembra poco, e invece quello pizzica più di quello che ne metti uno intero. Certe volte capita anche così, a noi ci capita ogni tanto. Infatti, no, la mia cognata so cosa fa, quindi no, non sono il tipo, se te l'assaggio appena nel negozio, stanno a base, non ne mangio. Anche dopo c'è ancora l'effetto che mi fai. Noi già piccanze, già il mangiare facciamo un po' piccanze con la maggior parte. Capito? Non tanto, però ogni tanto già certe piantate già lo mettiamo, senza esagerare. Beh, ripeto, e qualche volta magari capita che trovi quello che pizzica forte, ne mettiamo un pezzettino, invece ne pizzica forte quello lì, capito? Però già si mangia con la mente piano piano. Sì, è così, c'è morì. Poi il piccante, lo puoi fare il piccante, leggermente piccante, la pasta in bianco, qualcosa così. Io nella pasta in bianco un pezzettino ce lo metto. No che bruci, ma che si senta che c'è qualcosa di peperone. Sì, no, io solo mangio che leggermente, leggero, te li mangio. Ci sono un bel piccanti o si sa che c'è qualcosa a me vasi. Invece un bel agganna, un peperone. No, mi escono delle brugole, mi escono, e a voi ai pariti pone un pochino di più. Allora sei allergico quella roba? No, sono una fretta. Ma noi quando ce n'è troppo, se fosse delle brugole e a buttarle fuori, a voi vi mongo troppo a eliminarle. Quindi se leggero leggero sì, che non mi fa nulla, però se sono troppo e troppo mi va di male. Ehi, ehi, c'è uno che vuole entrare, avanti. Avanti, vuole entrare, aperto il portone. Giammari, forse sono nella 27. Aspetta, riprendi il macchino. Ehi, riprendi, guarda un po', se la porta è aperta. Capito hai? No, quello che ho io è tutto uguale, questo vicino, se è più il primo, il secondo, il terzo, il quarto, sono tutti la stessa pianta, sono tutti lo stesso calibro, ricordo, di piccante, non è che viene uno più piccante, uno più manco, sono tutti uguali. No, a me so cosa mi vaggi, quindi se lo vedo, se sono piccanti non te ne mangio. Se è leggero, leggero, leggero, allora sì che te li mangio. No, aggiunto io che i pannadari hanno troppo piccanti. Ha detto no, no, lascia pizzi che è meglio. No, se brucia, no, i casi saranno la bomba di lei, ma pare al corso, la lunga valore, no, non saranno. Si deve sentire, è leggero. Ma conosce a mia cognata come ti è leggero zoglio, io lo so. Oddio, non si apre ancora la mano. Avanti Gian Marino. Era anche sui funghi ci mettiamo, noi la maggior parte li mettiamo anche sui minestroni, poco a poco un pezzettino già lo mettiamo, no, senza esagerare il petto, senza esagerare, perché quando è forte, forte, oh, che rimanga. Però appena appena un pezzettino già, specialmente con i funghi, oppure quando si frigge le lumache, catta. E poi gattina a Tommy. Catta, andiamo dove andiamo. Ah che, ah, io ho preso il peperoncino, catta. Oia, e benemite, bacchi. Sì, ehi, il peperoncino, oia. Ci vuole, ci vuole. No, il peperoncino già ce l'ho. Al prossimo anno abbiamo un'altra qualità. E dunque dovrebbe arrivare intorno ai 10.000 cosa, di piccante, il più forte esiste al mondo. Mi è arrivato il seme l'altro giorno, l'ho ordinato e mi sono arrivato i semi. Lo voglio vedere, Albanero si chiama, Albanero, un cosa del genere. Ma tu hai piatti tra peruccino, Bacchi? Qualche uno sì. Ma è razza buona, eh. No, ne ho due tipi, due, tre tipi ne ho quest'anno. Ne ho uno meno piccante, uno piccante e uno piccantissimo. A me mi ha dato un Antonello che l'ha piantato nel cortile, carina, no? Ma sono piccolini, però so bene, dice bene che questi pizzicava forte, ma non li ha assaggiati ancora. Vuol dire, appena che si secca perché li sto facendo seccare. L'assaggio è un po' se sono molto piccanti. Lui ha detto che sono piccantissimi. Vediamo un po', perché troppo fa male, troppo, quando è troppo forte, ragazza, un macello. Ma se trovate altre farine sono più un centimetro e mezzo sono lunghi, non di più. Così è. Un centimetro qualche volta magari ne metti uno e non prende niente, Bacchi. È mischiato quel tipo di peperoncino, ma è quello che stiamo mettendo, quello abbiamo comprato in vasetto da Ropì, capito? È imbarato di vetro. Cose di vetro. Ma certi pizzicano, certi no. Secondo me lì hanno insaccato tutto, basta faccia peso. Faccia peso, già te le faccio per una pianta dei miei e l'assaggio a vedere se pizzicano. Adesso mi dà un po' questo che mi ha tantonello, devo provare a vedere un po', perché mi dà troppo e troppo, perché a me la roba, per procino sul mangiare mi piace parecchio, capito? Però senza esagerare, ecco. Ma c'è che di quello piccolino è stato Antonello, quello piccolo non è lungo più di un centimetro e mezzo. Quelli sono piccantissimi, sono. Uno non ce la fai a mangiarlo. Basta la metà, condisce al 100%. L'ho avuto l'anno scorso quelli lì, e poi ho perso un seme. E poi mi dava anche la quantità del prodotto che c'hai per condire, capito? È chiaro che magari se una pentola magari è piena, certo magari la metà ce la puoi buttare, ma se poco passa un pizzico di roba e va bene. Spero tu. Sì, no, a me... Ce n'è un tipo che mi va, leggero leggero, e boh, se leggero leggero già mangio io, se no ora si sta, se ne intendo che comincia a pizzicare forti, io mollo. Oh, nemmeno a me quando è troppo forte, no. Ma intanto per sentirsi i sapori, capito, non di più, quando è troppo non va bene, nemmeno a me piace, capito? Però ripeto, ogni tanto mi capita questo qua, no? Che magari ne metti un intero e lo condisce, mentre invece ne metti un pezzettino, certe volte sta lumeggia la faccia, la bocca. Ci sono dei tipi, sì, un pezzettino basta, capito? Un pezzettino piccolino, piccolino. Sto guardando adesso, proprio venire, no? Ho preso il cappello con mano e sto guardando quel peperoncino. Cosa dice Albanero, il peperoncino Albanero? Allora, il peperoncino piccantissimo, è nero, e cosa, le cose, il pizzicone 300.000 scoville. Il più piccante che sia al mondo. Oh, c'era mio compare, no? Mio compare, che io non so come faceva. Lo mangiava col pane il peperone. Ahi, c'ero mi, quello lungo. Lo mangiava col pane, capo. A me mi allumava, non riuscivo manco a resistere, capo. Cattà lui, capo, tranquillo, mangiava intero col pane, capo. Boh, tuttora mi. Quando va al bar, la cosa lui dice, sta bevendo e mangiando peperone, quelli lunghi. Come niente fosse, gli ho detto a una giornata, ma come ti fai a incontrare il tiro? Basta provare, e adesso mi bocca in bocca. Ma questo guarda, abbiamo, ma di quello pizzicante veramente, lui boh, li mangiava come niente, boh, ho detto che arrasciò comunque, arrasciò, dicevo tanto pizzicava, gatto, guarda, tranquillo, mangia, ma è da molto tempo, mi abituato a lunghi di siciliani, gatta, vado a rimangiare, allora, pure appena un rubizio siccome c'è a Torino, no? E cade giù tra i loghi, se lo mangia così grubane in tre o me cade lì appena mi produceva un me e non però che arriva a Caragiti e invece se lo mangiava tranquillo in tre o sono abituato, insomma, infatti invece c'è proprio in tre o lo mangia che c'è come se fosse un panino e ti ringotti, ma io penso che il cocavolo lo si incendieggia. Bah, non lo so, infatti pare che chissà cosa ha del troppo per di fare a filo, ma l'ha sempre mangiato, ricco, per cui già si acciappa ancora tranquillo buro. Cosa vuoi fare? Noi non siamo capaci, vero to? No, siamo buoni noi, no, a mangiarli così. Nulla da fare. E allora se uno mangia che rimagna, noi non mangiamo appena anche troppo, così è bacchì un pezzettino basta, solo che il peperoncino quando è fresco non è secco ancora, la punta al primo pezzo lo puoi mangiare tranquillo, non pizzica, ma però appena che scomincia a passissi è tutto pizzicante, sia al comento sia alla fine. Ma che, uia, per carità, cazzo. Eppure ci sono quelle che riescono a resistere, cazzo, noi non ce la facciamo, chissà, ma con abitudine, boh, non lo so. Che c'è come vale che c'è niente a mangiarsi il pepperoni con questi grumbani. Sì, si è cominciato da giovane a mangiarlo, e dunque guarda, sono abituati come se fosse mangiare un coso, una mela. Certo. Bubu, avanti tu. Andare così, poco a poco, appena appena avanti per dare il saporino e siamo tranquilli noi. E ho messo che si mangia per fare così, arriva a 600 e fare il so come, chissà come ti dirà il tuo. Ma non è tanto di cosa, finché è fresco il coso lo senti, perché lo so da mio padre, lo so io. Intendia il fresco se non mangiava, in trio se non mangiava, quando era fresco. A cosa ne vuoi appezzare i dominorito? Bisogna sentire chi si frega, chi si ronghi, capite solo che so che fosse davvero. E chi c'è, mi compare, mangiava chi si bruppi, chi pizzicava un me. Ecco, infatti, le dice io, ma non mi faccio male questa cosa. No, ormai siamo abituati, è buono, rinfrescante. E voglia, per carità, la moglie rifrigera tutti, che da cosa, vero ma chi? Ma che? Ti piace poco, io. Allora, il peperoncino che sa tanto bello, è frutti assai piccanti, conici, lunghi 1 a 1,5 cm. Il colore è verde, poi diventa viola, poi rossi. Fanno 3 colori, fanno. E quelle lì. Poi un attimino mi assento, ripresi tu. Vai Giammari. Ah, ma chi? Io lo so da mio padre quando lo piantava. Una volta che era già grandetto, che era già uscito, ecco, lo assaggiava lui. E diceva che era buono. Assaggiavo io, ma a me era bisogno catta. Si pizzica, ma non è assai quando è freddo. Quando sta iniziando a colorare. Quando è colorato è che pizzica e si va a sbruciare. Però prima no, prima si può mangiare, riesce a resistere, ma quando è fatto non lo riesce più. Infatti, quando è fatto è che non verdisce. Ah, mio padre lo piantava perché glielo richiedevano e quindi lo piantava. Io quest'anno l'ho piantato un po'. Ne ho piantato un po' quest'anno. Ne avevo 3 qualità, ancora qualche pianta mi è rimasta. Ne ho piantato un bel po', l'ho piantato. E c'era quello medio e piccolo e uno grande, mi hanno dato l'anno scorso un paio di piantine, però non pizzica tanto, è più per bellezza che altro. Infatti per bellezza io non vado assai d'accordo col peperone, quindi in molte cose lo metto, in molte cose no. Sì, si può mettere quando fai dei polpi e insalata. Quando fai funghi, quando fai queste cose così, un piatto di pasta in bianco. Nella pasta non ne mettiamo noi, con i funghi, con i coso, con... E vabbè, con altre cose, un pizzichio già fa. Ci vuole per dare un po' di sapore. Poco, ma non esagerare. Se si esagera non prende nessun sapore, senti solo bruciare e basta. Ieri l'ho messo nel ripieno dei calamari, appena l'ho messo. Adesso ti dico, non pizzicava assai, ma andava bene. È più gustoso quando è così. Infatti, leggero, è sempre andente. Allora, non piccante perché... Si rivolta a fare leva ogni volta che poi lo metti in bocca, no? Saranno poco. Infatti appena è rinfrescante tutto, fa bene anche al sangue così, ma quando è troppo. Quando è troppo fa bollire il sangue, le vado molti. E ti fai nelle vene ti sta la cosa di stata. Prima di tutto ti tassa il burugoso, la temperatura di tassa, e poi ti fa salire anche non la metto più. Sì, tutto fa salire, tutto va da sta, capito? non dicevo che facendo mia moglie, così è troppo. Infatti, lo sta curando in me tutto. Ehi, come anche dici la canzone di Coso, di Rosetta? Il Coso, si dice un baragganga con quei parole. Ma io c'è quella melenzana, eh? La melenzana, ma è sempre il famiglio del bevalone, però. E infatti, e non andiamo d'accordo, no, così. Ma che c'è, Marino non si è fatto vedere, deve essere impegnato al meglio per mille. Va gente a casa Giulia, ma va gente, boh. E poi la sia anche, si era ospiti. Oggi non ha travagliato, ho travagliato lo sia. Non lo so, boh, non lo so, non vi gioco più io in città, quindi non so come sono i turni, che fanno. Perché non li ho visto nella zona di casa, nei turbini oggi non venivano. No, non ce ne ho spazi di oggi, è solo in Piazza d'Italia dove c'era festa ieri. E chi è? Luca, avanti. Eio mi tole c'è. Sì, eio, buru eio. Fugito è to. Sì, davvero, drommi duiri. Vai, ci dà tu sì. Aio, fa vita. Aiuto, quando devi fa vita, non fa vita. È impegnato, vuol dire che non mangia niente ancora. Sì, andate. E va bene. Beh, è male, anda, tutto misciato, Andiamo dove andiamo. Ah, vale, ci vorremmo, rubare una bacca e rubare l'altra. Vogliamo. Sapete, ci paesi mi. Vede le camere, io te non ne ho approfittato, qualcosa di... dei fuochi, che cosa, non ne ha fatto vedere le camere. E infatti, ha fucilato. Ah, è una cosa di Rosinda quella fucilata, non è tutta la telecamera. La Rosinda che non entra nulla in Kivi, Kivi deve essere bigliando contro di te. Se tu tanto che poi di là, prima o poi che poi di là, no, papà che tassa mondezza quanto venne. Aspetta. Anche tu non ne ha fatto nulla. Tanto pure ci si robbia, se la biglia con una cosa che facendo, tu matte ci poi di là. Sì, poi tu pure. Non so più che facciamo. Non ha compreso ancora nulla, non ha compreso. Ti chiedo di faccia, domani te si ribaga. A chi vuoi dire che invece di buonirne 70, ma ne devi buonire 80. Ma con salli. È chiaro che la cosa bisogna riparare e bisogna buonire no. Se a tutti i cittadini buoni andare, sei tu pure in mezzo. Ma devi da essere tonto, chissà, ci credi noi ci dà ribuscia a carisoi, Mattesi, a roba gioia Mattesi fascia. Ma è il gusto di fasciarla, capito? È anche quello, è il gusto, che si ha già fatto un'opera di bene. Che è una brutta cosa che stai facendo, una roba duia, Mattesi, stai facendo, e non ti fai vedere che cosa che danno hai fatto. Sì, io. Male, male stiamo andando. Al rotto li siamo andando. Sì, purtroppo venne gente già che sono una massa di ignoranti, so, secondo care di chi si. Che si guani, che facciano i cantopei e si guani. E io non so se farli. Se farli prima o poi. Prima o poi se viene la pietra galla. Sì, chi sono tentato. Ah, ci ha fatto, fatta bagaga, come ti si devi la cosa. Avevi visto non avevi toccato più. Sequestrato i fucili quanto veniva. No. I fucili me li ha lasciato. Ha detto, poi dietro sotto la ola. E dopo è incaccaludito. Sì, hanno cominciato a sequestrarne un po' di roba e tutto quanto, vedi. E lì poi una grossa multa, vedi che c'era difficile a fare. Sì. Quindi non mi trovano mai, lì ci sono gente del mestiere che sanno come comportarsi, come ti camminare, come ti portarsi, tutto. Non è un picco pallino, lo fai tu, non sei uscito mai con la portare, sei accatturato. Sì, va chi? Già si può acciappare, si denta, basta tentarlo, degui, rodenti e vedi che già esce a fura, Edo. sa c'ha fa a coso? Mica stai sardo mi. Eccoci qua, to. Sì, mi sono bene, mi piazza Tola, Alghero, Cagliari, Castel Sardo. E che cosa? Questo da minuti, hai fatto vedere piazza Tola, Castel Sardo, Cagliari, Olbia. Ah, e il tuo canale? Il terzo canale era. Ah, beh, anche per dare il giornale giallo. Ah, Rai 3. Ho capito. Hanno preso già anche a Sassari, in Piazza Tola c'erano i fuochi. Sì, a Piazza Tola e Piazza Fiume. Ah, in tutti e due posti, oh, ecco. E abbiamo visto da qua. Sì, abbiamo visto. Ma c'era anche da questa zona, adesso non so se la a Pedanieta, e a che lungo virano, ma chi si virano è? Avevo visto una casa io, miravio, infatti visto una casa con chi è una cattura a M, e te fa dire che il prezzo c'è anche se di Blattamona. Ah, se, pare il cirurgo che aveva fatto, va, ma... E tu visi le macchi? Siamo lì. 50 euro solo, capito, con la scatola lì, cosa? 50 euro costava. Capito, 50 euro sono meme. Mi sono 12 o 15 solo, con la scatola lì. Metti fuoco al primo, automaticamente vanno tutti. Ecco, zitto. Una scatola è 20 colpi ti fa. E ripeti, guarda, sono quasi precisi, so. Cinesi solo, mi tocco. Questo che li ha fatti vicino qua, erano 20, erano 20 colpi. Allora grande la scatola. Ma quelle scatole sono in giro per prendere dei cinesi, 50 euro, se sono 12 o 15, non di più, perché ci sono quattro file. Io ho visto quello che la scatola che ho visto io, quindi era una ventina, anche perché erano 5. 10, 15 e 20. Mette poco al primo poi, ti allontani e fa pum! Ho fatto quelli che fanno la platamona. Sì, quasi precisi sono. Quindi a voglia, devi dirli, fruscendi. Ma hai visto il telegiornale però, a Napoli, mi sembra che sia. Quella donna un razzo l'ha presa sul petto e l'ha morsa. Ehi, cazzo. Quelle bisogna stare attenti, quei razzi bisogna stare attenti. Che lì ci sono per i pericolosi, ma a Napoli sono esagerati. E il continente a uno va a posto, lui dice va a posto. Ma che tu che va a posto tutta la mano? E che dà se che va a posto il braccio, spalla, va a posto, e un pezzaretto di gabbo. Certo, sto salando, allora è stato in fresci. Si ripare a Rieti, io la vedo con Bruppio di chissà cosa. Ma chi? Sì, infatti, lì ci sono, chi si non attende, sono dormiti, ancora non sono partiti. Andano e toccano, come se poi tocca in mano invece con Pietra. E quelle ragazzine di Cagliari, tutte e due mani hanno impresso. Come ti fate che vi fino a 100 mani? Oh, gli hanno sequestrato un poco di chissà roba, Cazzo, se si maduri, più maduri di un pallone. Ti compiaccia che io, cazzo, ti fa già pensare di farti. Mi pensano, ne copiato uno la che ti ha passato dai nonni. No, ti è Natale, e ho piazzali, mi fate la fretta. Tutti i preti si sono tremolati, pareva un terremoto. Allora, cazzo, boh. Quelle sono troppo pericolosi, ma sono tutti pericolosi, c'è poco da fare, sono tutti, quelli grossi è peggio ancora, mamma mia, no, saranno, ohia, no, non mi sono mai piaciuti a me, così che è sempre lontano, là si impara, ma io no, oh, vedi, ma lontano io. Tranquillo, ora, da lontano la parità. Ma mi sono più vicini, andano a seccarli, non hai copiato, andano a pigliarli in mano, lì si sono ancora drommiti, la bici andando piano piano, andando a pigliarli in mano si copieggia, e passano i diti, la mano e tutto quanto. E anche gli ignoranti, se lo vedi che lascia il carro, vai digno. Otto, è parato mai? Io già l'ho parato, però non mi piace ne più. È tutto che vi pongo la recci. No, devo lavorare una voce, a me non mi aiutare, se no te le dirigono. Sì, ma la picchi, no. Basta, parlo tu, io non ne voglio, manco per te. Sarebbe chiarsi da lontano. Sì, è meglio che ci ricchidenga nel conto. Quindi, avanti, che ho perso le mani. La polizia gli domanda magari che vi ha dati, perché era minorenne pure. E domanda per capire a dati, già vanno a chi gli ha dati. Sai, ecco, alla coppola di una qualcuno, certo. Sono ben pericolosi, ma come ci si fa, ragazzi? Nemmeno che l'aspetto di scoppiaggia in mano, ma poi... A Barini Bombi, Barini, aveva fatto che da maniera, già appena gli avevi arrestato, 2 mesi di carriera. Troppo, ma si vede che sono arrivato dalla Cina, ma raccontare le biere, non so se l'avete visto, raccontare le biere, cazzo, con ognuno che ha più male del ballone, cazzo, come fanno, cazzo, ma mi dare c'è questo lato, mi chiedono un muro. Raccontare le biere. E tutta cosa viene dalla Cina, la Bologna, tutta roba estera, io penso, eh. I cinesi, i giapponesi, proprio la pena da pura, anche cosa poco la portano. E che ti viene via 30 kg sotto la roletta, guardi, che erano circolati. Accetta che dormia tranquillo, se in caso è partì a Carrasco, partì alla roba da Buru. Ok, va bene là. Io chiudo, ma chi? Dai, ci sentiamo domani, se Dio vuole, dai, se coincide, per cui vi saluto. Grazie, la piccola chiacchierata, anche se breve, fa sempre piacere, dai. Saluto di casa e a domani. Ciao, ma chi? Vai tu, riprendi tu, io chiudo, buon provvedimento anche in casa, dai. A che sentire. Ok, ciao Gianmarì, stammi bene. Ci sentiamo domani, se tutto andrà bene. Ehi, ciao Gian Maria, buona serata, sono in casa, a domani, se lo coincide. Bene, Tore, anche io mi sembra che faccio la stessa fine di Gian Maria, perché devo prendere le medicine. Ce la sentiamo, Tore, salutissimi, saluta la signora, buona cena, buon tutto, a domani, e fatti vedere, ok? Ok, Bacchi, ci sentiamo, dai, alle prossime, ok. Ciao, Bacchi. Tore.